Betty. Già fatto. Sì, mi ho fatto un po' di canna rosso. Maledizione. Ah, sorte. Ehi. Un po' di carne, melanzane e zucchine. Ecco, adesso mi hai fatto venire la voglia. È che devo togliere. Se butto il braccio dentro il freezer, trovo qualcosa di congelato. Okay. Se tolgo il braccio nel freezer, guai, ne tolgo un vitello. Una volta sono andato a casa di un amico. Aspettati che trovo, entro il braccio nel freezer. Sì, cosa devo bugare? Mezzo buchito, vai, poi aiuto. Vamos, dentro il buco, cosa ha fatto? Il buco in camera da letto per il freezer. No, oggi boh, non so neanche cosa, sinceramente non so neanche cosa mangiare, ma forse faccio il digiuno. Non fare il digiuno te. Caspita, quindi non ti copiavano, non ti copiavano, ti copiavano basso. Sì, ero così, due fatte, boh. E ti copiavano quanto? Ma non lo so, ma detto quel signore lo sento basso. 100 watt, ma a me stai dicendo? Ma chi l'ha detto quel signore? Marco. Ma Condor? No, non è Condor, no. E chi? Un altro, Marco, non so chi sia, uno nuovo. Oi. Dove c'era l'antenna? Nel letto del camera da letto? No, una magnetica in macchina. No, vabbè, direi a controllarsi l'impianto allora. Vabbè, Antonello sta uscendo con l'asilo 2001, addirittura, sul balcone. Vabbè, ma Antonello ha avuto problemi, lasciamo perdere, però, cioè, le persone che entrano così, no, ti sento basso, antenna di... prima di dire che una persona arriva bassa, arriva così, voilà. Devi farti prima una cultura, poi prendi e puoi dare un parere su una modulazione di una persona o su un segnale, no che tu pigli e ti sento basso, il signore non lo sento. No, di lì puoi attaccare anche 10 kW, no, non ne togli piede. Vabbè, ma tu sei geloso perché a me mi ha dato del signore. No, signore in cielo. Se mi avrebbero dato del signore mi avrebbero detto una preghiera. Allora. Beh, come è andato oggi il primo giorno? Allora, scusami, diciamo che c'è un casino, però mi ha dato soddisfazione. Infatti tant'è vero che è venuto il principale e gli ha detto a me che ma Tino è incazzato, ma mi posso avvicinare? E gli ho detto no, tranquillo, già sta facendo quello che c'è da fare. Poi si è avvicinato, beh, buongiorno, e buongiorno un cazzo. Eccolo. l'altro giorno l'altra volta, capito, a Biglia c'è questo collega che è un pazzo scatenato, mi arriva questa fan dei Nomadi e agli altri fan gli ha detto buongiorno, siamo arrivati anche noi. il pazzo scatenato l'ha fatto, piace al cazzo signora. Secondo te è morto, vero? Ma allora, esattamente, ma problemi? No, secondo te, io non ho un campo da battaglia. Adesso saremo in Ucraina. Lo so, ma cosa ci vuoi fare? C'è la gente che è incompetente. E il primo sei tu e la dico tu. Proprio l'ho dimezzato, e adesso lasciami fare, allontanati da me e vattene via. Alle 7:30 del mattino questo. No, è venuto più tardi, è venuto verso le 10:30. Perché se mi va alle 7:30 ero ancora più nervoso. Ah, quindi vabbè, il caffè sarà preso tranquillo, dai. Diciamo che gli hai dato la merenda di questa mattinata. Addirittura, ma il Tascotti, un favore, ma il rullo ti serve? Sì, non lo darà nessuno. Ah, vabbè, no, perché c'era un amico mio stesso che gli serviva. E poi serve a me, avete fatto un casino qua, serve a me. E allora dico che ci serve, bravo. Così, bisogna dargli buongiorno, la dalle 6:30, 7 del mattino bisogna dire buongiorno, così si allontanano, non ti cercano, ti lasciano da solo e tu lavori tranquillo. Anche io faccio così, quando c'è la giornata che non voglio sentire a nessuno, prendo, ehi, ma secondo te, secondo me ti devi allontanare, ma ti devi allontanare da me, allontanati, non mi parlate, quindi fate il vostro, io faccio il mio, non voglio nessuno, non mi serve niente, e arrangiatevi, boh, fino alle 10 di notte non mi cercano. E allora è così, almeno tanto è vero che si è avvicinato il mio collega, adesso sembra che l'hai picchiato. No, ma anche se non c'è niente, no, anche se poi ti metti a ridere sotto i baffi, però è giusto perché te ne vuoi stare tranquillo, non vuoi essere cercato, finito così, allontanatevi, non mi rompete. Ma ascolta, te la posso chiedere una cosa? Non mi chiedere nulla, arrangiati, sei tecnico, arrangiati. Eh sì, è vero, è vero, è vero. È così, è così. Ma comunque, del resto tutto a posto. Ma l'Asinara siete te? No, io sono a Sassari, loro sono andati all'Asinara perché c'era da fare. E non vieni questa cosa l'Asinara? Doveva essere già finito. Oh. E quindi c'è un briciolo di penale, un briciolo brutto, anche se il briciolo a penale è brutta, perché non è solo il briciolo, ma poi segna, il penale va, cioè non è che ti dà un buon una buona recensione. Aspetta che devo girare più tra al cane, ai cani che gli ho messi nella graticola. Eia. Eccolo qua. Arrosto? Sì, gli ho preso quei views del pacco da 12 all'Eurospin. Gli ha fatto la pasta, gli ha messo in mezzo, gli ho fatto arrosto, hai compreso? Io invece di quelli li sto usando per darle la pastiglia, se no non se ne prende. Quindi un pezzo a lui, non dico metà, metto metà. Ne faccio pezzetti e due pastiglie le infilo dentro e poi il resto glielo. Sì, beh, anche io quando devo dare le medicine faccio così, o li prendo WeViews o altrimenti con la mortadella in confezione, gli avvolgo la roba dentro e manco terra docadi. Però sai che una volta se ne è accorto e iniziava a masticare perché gli avevo dato due pezzettini piccoli, sentiva cosa due, no? E me l'ha sputtata. Perché allora gli devi far desiderare quella roba, anche se tu virarai a prima a vammi, dubbia la masticheggia, se tu gliela fai dorare un paio di volte, tu intendi lo viaguri biasi, poi diventa ingordo e se la mangia senza masticare. Io gliela faccio così, adesso mi quando devo iniziare a dargliela quella simparica trio, quella per che li fa tutto, zanzare, fa anche la rognetta, quella fa anche la rognetta, e li prendo a 40-60 e faccio una intera uno e l'altra la divido, capito? E la do a, intanto fa 30 kg, 35 anche, una intera la do al fornese e l'altra la metà la do all'altro. Così adesso d'inverno la prendo, mi da ottobre a marzo. Sa che la devo prendere anche io, però non mi ricordo il nome, ma ci vuole ricetta. Sì, si chiama Simparica Trio, viene 54 euro e sono tre pastiglie e a me mi facevano 6 mesi, però a vanno mi rivado in 6 mesi. Vabbè, io diciamo che ormai la zanzara l'ha già appunto. Quindi, ma per le zecche, tutto quanto? Fa tutto, zecche, ma siccome se li davi con la pastiglia lì dall'inizio, da quando ti ricordi quando era piccolino io ti dicevo piglia la simparica trio e tu ma gli do questa, io li do sempre a quella lì a loro. quella fa anche la resmania, quella fa anche la resmania, costa, perché costa, però ti serve Rugani. No, vabbè, io no, l'ho preso il sinistro, ho preso il collare, ma il caso ha voluto che, non mi ricordo cosa era successo, gli ho fatto le analisi del sangue e il risultato positivo all'esmania, ma in forma lieve, è proprio, è meno male. Sì. Beh, un attimo, la zanzara un attimino, con la contagia di quella malattia un attimo. Però a me quei prodotti Seresto non me li hanno proprio consigliati. Addirittura a me, chi mi aveva dato il Fornese, mi ha detto: guarda, questi cani sono anche molto immuni alla leishmania. Cioè, ma tu te ne rendi conto che questa zanzara prima non c'era? Gavi, ma perché il punteruolo rosso c'era? Se non arrigati a noi, purtroppo anche questi negri che vengono malati e poi pungono a loro e poi pungono a noi, ci trasmettono la loro malattia, cioè non andare poco lontano. Esatto, sono proprio questi negri di merda che prendono e contagiano a tutti, perché queste malattie, queste cose, il coronavirus dalla Cina, da galera l'hanno portato, questa sorta di polmonite di schifosa, ma poi lasciamo perdere che, io queste malattie che portano questi, ma non è perché sono di colore, perché fanno proprio schifo, perché sono persone disordinate, capito? Sì, guarda, io dico la verità, ho conosciuto un ragazzo di colore che lavorava in azienda dove lavoravo io, una persona così umile io non l'ho mai conosciuta, ma proprio un bravo ragazzo, credimi, poi volenteroso, lavorava, però cavolo, gli hanno dato una casa per dormire lì in azienda, no? Una volta sono entrato a casa sua a dargli roba che io ormai non mi mettevo più per lavoro, camicie, pantaloni, perché lui era senza niente, no? E trova, ti serve questa roba qua? Sì, grazie, non mi sembrava vero. Ma per carità, cioè, ma stava dormendo in un letto, nero era lui, nero era il letto, le pareti erano da vomito, questo couscous che mangiano loro, tutto nella cucina, a casa, ma non mai, perché io avevo confidenza, no? Non ti prendo un barattolo di tinta e ti tingi la casa, qua ci devi stare tu, mi. E lui era dalle pecore a quella casa lì, quindi sono abituati così, capito? Ripeti, però adesso, cioè per mettersi una camera, ma questo tipo quanto pesava? 150 kg? Cos'era? Alto? No, alto, ben piazzato, un ragazzone, no, io sto parlando di 20 anni fa, Perché, cioè, se questi qua sono profughi e sono magri, la camiciatura li fa a lenzuolo, Allora, non te lo dico, però, immaginatelo. È vero, hai ragione. È vero, hai ragione. Però vabbè, li facciamo anche da copertina, e allora? Poi se gliela metti in pile si scaldano in tre. No, questo non c'aveva niente, poveraccio. È appena arrivato e insomma. Però volenteroso, grande lavoratore, credimi. Mi dava molto una mano a me, perché ce l'avevo io come ragazzo da pulizia scavo, così, no, per una mano. E quindi parlando, insomma, caspita, ma anche colto, Sì, no, adesso io, scherzo, però, guarda, conosco molta gente io di colore. E sono persone, allora ci sono quelli di colore che prendono e sono una massa di mandroni, che ammazzano un cane e baffa coca siede. però se tu prendi i senegalesi non devi guardare i marocchini, i pakistani, così, i nigeriani, perché allora, il nigeriano è un mandrone, il nigeriano è proprio mandrone. Chi lavora, i veri lavoratori, e quelli sono da ammirare, sono i senegalesi. I senegalesi sono quelli che vanno per le spiagge, e io li conosco quasi tutti, quelle persone lì, perché pure trovo quando fa lavoro, con le bancarelle, e quelli sono veramente in gamba dei lavoratori, i senegalesi sono in gamba, è proprio un'altra cosa dal nigeriano, il nigeriano è mandrone. Vabbè, io queste non lo so, però come si trova questo qua, che era della Mauritania, non ricordo ancora, abitava lì, infatti ho detto, ma nel vostro paese cosa c'è di conveniente? Ma detto, guarda, la cosa che conviene portare qua è l'oro. L'oro costa una stupidaggine. Ma ero diverso dal nostro, da quello, cioè il loro oro, il loro che hanno l'oro, non vale niente, perché è oro giallo come l'oro arabo, capito? In Arabia c'è tantissimo oro, però non è 18 carati, non è come quello che si, diciamo, la classica collana, il classico bracciale, non vale niente. È un oro che se lo porti qua non ha mercato, vale quel che vale. Se qua l'oro è a, cosa ti posso dire, 20 euro al grammo, quell'oro te lo pagano a 4 euro, capito? Infatti ho detto, caspita, perché non lo importi che ti fa qualche soldino, gli ho detto. Me lo stava dicendo anche lui, che è differente la cosa. Non vale a niente, come ecco, visto quel programma che fanno ricercatori d'oro, si prendono e trovano oro, però non vale a nuda su materiale. Il 18 carati è quello che vale tantissimo, il 18 carati è quello che prende, è un oro che dura un'eternità, quello che hanno in Arabia, cioè gli Emirati Arabi hanno tantissimo oro, tu li vedi tutti quanti pieni d'oro, denti d'oro. Vabbè, l'oro che vale un bel, chissà chi vanno i zingari in bocca, chissà chi si è fatto i noghi, chissà chi sono quelli di una bella su, se pigliano in grefa, però entrare in un campo nuovo, picchiarli tutti e prendergli i denti e diventi ricco. Non solo denti, cosa tutto hanno, bambino mio, cosa tutto hanno, lascia perdere, lascia. Basta vedere le macchine che hanno, che noi ce le sogniamo. Io per mantenere, vabbè, lasciamo perdere, che in macchina mia ci puoi mangiare, in macchina loro non mi posso neanche sedere io, perché mi farebbe schifo solo se mi sedili. Comunque, li vedi con BMW, con X5, BMW M3, Mercedes, non li vedi con macchine piccoline. L'altro giorno ne ho visto uno con una Silvio, con un Alfa Romeo, con una Silvio nuova, bella, con zingaro schifoso, pinghinoso, la moglie era brutta come la morte, aveva le unghie dei piedi che sembravano due cozze, bruttissima, proprio brutta, però lei con lo Silvio. vabbè, è la loro usanza, sono fatti così. Infatti se devono starsi a casa sua. Ma non è così quello, vedi? I nomadi devono nomadare, però non nomado. Nomadare, come ha detto la Meloni. Chi è nomadi deve nomadare. E allora, invece no, si stabiliscono. Esatto, mettono gli stabilizzatori, come quando li metti con la terna, mettono gli stabilizzatori alla terra, boh, finito. A furà, a magnaccià, a piglià, a fa tutto questo che devi fare. E tu invece fate 10 ore di cantiere per campare a loro con gli assenti sociali. E allora, ma per carità, guarda. Io molte volte dico, se chi non lavora ha tutto, chi lavora deve pagare le tasse e non va un cavolo. Non lavoriamo tutti così, non paghiamo niente. Devo pagare 400 euro di luce. Io me la sto temendo. 400 no, ma 370 sì. Vamos. Sono quelle 30 euro che mi fregano, porca, vedi? Se 30 euro che ti rendono più povero. Mannaggia, mannaggia. Cioè, eppure c'è la maniera di farti luce da teme, eppure c'è. Che cambio operatore. Cambio operatore? Certo. No, perché guarda, no, è stata consumata. Però dico, c'è la maniera di farti luce. Sì, e beh, no, vabbè, se è stata consumata ci va bene. Sì, e beh, capì. Diciamo la verità che in estate il condizionatore non me ne sono privato, quindi. Ma infatti anche io non me ne sono privato, infatti sto temendo. Le ho detto a mia moglie, ho detto guarda, quando arriva la bolletta non dirmelo, lo se me lo devi dire avvisami, dici guarda è arrivata la bolletta che mi metto dentro il cassetto. No, avvisa perché prima di tutto mi sdraio nel divano, mi fai due coccole e poi pian piano dici. Esatto, dimmelo quando sto dormendo. E quello sto proprio prendendo sonno, così sembra un sogno. Bravo. No, va bene, anche io nel condizionatore me ne sono privato, perché quando rientravo la mattina c'era quel caldo mortale, era... ho detto no, fermo un attimino, accendi tutto, con in moto fino a quanto dormivo, 3 ore, 4 ore, fino alle 11, condizionato alla secca, 20, no vabbè, non alla secca, bugia, 20, 25 gradi, qua poi io c'ho quel 12.000 che mi entra in tutte le camere, arrivavo e mi mettevo anche le coperte, cioè mi mettevo il lenzuolo, però quando devi dormire a poche ore, devi dormire bene, un conto è che rientri anche alle 7 di sera, 8 di sera, la notte ti corica alle 10, alle 11 e ti alzi la mattina alle 5, alle 6, d'accordo, però quando rientri a Manzano, che vuoi già rosori ascio, no? E devi uscire tra un paio d'ore, quelle 2 ore me le devo fare bene, 2 o 3 ore me le devo fare, guarda, alla grande, non ne voglio sapere, buono tutta a manetta, zitti, silenzio, senti vi ammazzo, vi uccido, quindi tutti in silenzio. È vero, vabbè, quello sì, porca miseria, ci vuole, il fresco, se non c'è fresco non ce la fai a dormire, io, guarda, preferisco il periodo autunnale, forse un po' il primaverile, però voglio dire l'estate mi greba, l'estate è piena, parlo proprio come questa estate che è passata adesso, ma lasciamo perdere. Io sto bene adesso, questa è la temperatura mia giusta. Anche io, ma sia per tutto, sia per uscire, sia per fare una passeggiata, per andare a lavorare, per, insomma per tutto, almeno ti metti una magliettina, un golfino leggero, una felpina leggera, oppure se stai bene anche solo con la magliettina e non sudi, cammini, vai, giri, fai. Perché il fatto che l'operaio rende anche di più con queste temperature qua, perché se tu inizi a soffrire già dalle 8 del mattino, dalle 9 del mattino con 32 gradi, arrivi all'una, sei cotto. Guarda, tu credimi che noi prendevamo e arrivavamo nelle piazze alle 2 e mezzo di sera, alle 3, cioè non arrivavamo. Arrivavamo di lì alle 9 e mezzo, alle 10, però quando tu raggiungevi quell'orario, chi verani, noi abbiamo raggiunto una data a Carloforte che c'erano 44 gradi, 44 gradi, l'umidità era al 70%, non potevi stare neanche all'ombra, c'era caldo, anche alle 11 di notte smontando c'era caldo, saliva il caldo dal pavimento che in quella piazza che ha fatto Mussolini, e tutta quanta intracchita in marmo, non fa vedere un gallo da sotto. Ma scherzi, stavo parlando oggi con il mio collega di lavoro che è andato a vendemmiare, no? E mi ha detto, lo sai chi? Sì, sono svenuti. Cioè, sì, sono svenuti, non mi hanno infatta. Pensa a tu. No. E noi vedrà che l'anno prossimo d'estate saremo di nuovo punta a capo. Siamo di nuovo, cioè anche peggio, perché ogni anno che va noi prendiamo e dobbiamo abituarci al cambiamento, cioè proprio climatico. D'estate prossima secondo me ci sono 46 gradi. Già cioè, abbassato verrà gaggio, che l'anno verrà ancora più caldo, l'anno che viene guai. Noi moriremo arrostiti. Dice, ti piace l'arrosto, topica. No, allora mi condisco, voglio prendere un peperoncino. Esatto, esatto, i bagni schiuma, fece azzurra all'aglio. Allora, no, no, no. Vabbè, beh. La settimana di veggia, vai tranquillo. Oh, comunque a Salvini hanno dato 6 anni. A Salvini? 6 anni. E per cosa? Cosa ha combinato? Non ho seguito. Perché non ha fatto sbarcare ai tempi che furono i negri. Ma vedi che sono, ma vedi, io mi domando il dubbio. Ha fatto bene, ha fatto bene. Esatto, esatto. Ha fatto bene, sì. Ha fatto bene, sì. Io quel magistrato l'avrei preso, l'avrei portato in mezzo a una banda di quelle persone affamate, l'avrei messo, era stato donna, in mezzo a quelle persone. Ma non per fargli cosa, per fargli capire cosa vuol dire, no? Anche in mezzo alle donne, cioè donne con donne, l'avrei messa lì in mezzo. Di lì in mezzo, l'avrei lasciata un mese. E poi è umiliato e se ne avanza, perché poi di lì ti prendono a morsi, dalla fame ti prendono a morsi. Voglia, lascia perdere. Allora, col muso mi ha... Cosa c'è? Cosa c'è? Col muso mi ha alzato, mi lato. Vai fuori tu! Tutti e due no, chi so. Beh, chi dirà, tutti e due attaccati a me, Lendi, via Gendi, Vendi, a prendere a Ianna, a voi mangiando abbiamo mandati fuori, poi prende, oh, è un casino, guido. C'è il fondo che è tutto pieno d'erba, tutta attaccata a faccia, disordinati, sono dei ragazzi proprio disordinati, ragazzacci. No, quello, allora, Aro, quando lo chiamo non ci viene, magari ha un pezzo di legno in bocca? Assolutamente, non si fa, no, proprio ti gira attorno, non si fa prendere. Adesso perché dentro casa è venuto a lecchinare, vedi, si sta strusciando, si vuole accarezzato, hai capito? Come fanno loro? La mattina mia moglie gli dà il pane, no? Il pane del giorno prima, gli lasciamo un paio di panini e glieli dà la mattina come ci alziamo. Tum tum, a uno e all'altro, spariscono 10 minuti. Si mangia il pane, poi biglia e venini. A chissà chi devi dare da mangiare i gatti. Esce da mangiare i gatti, boh, boh, boh, rissa totale, abbai, fai, bravo subito, li ammazzo a tutti. No. Oh, la cosa scherzo non l'ha portata, certo, non fa, non vuole parlare. Ma tu lo sai cosa fanno i miei? A volte prendo il gatto, me lo prendo in braccio, no? Nel divano, mi guardo la televisione, mi prendo il gatto, la carezzo, gli tocco le zampe. Arrivano loro sparati, ma c'è la porta mezza aperta, sparati. Circondano il pene e il gatto, mi graffia, mentre lui è nelle cusce. Io lo prendo, lo sbatto al divano e succede una risa mondiale. Proprio lo circondano, prende quello, non sa che prendere a schiaffi, che poi buscano dal gatto. Inizia, si mette dritto il gatto e gli prende a schiaffi a tutti e due. Guarda, ti faccio il video qualche giorno. Ma a parte non gli fa niente, cioè non, poi non si vendicano. No, ma se dormono assieme, ma se dormono tutti quanti un pari lì. Non mi è detto un paio di 4 macchine. So 2 masci, una femmina, ma so 3 masci, una femmina. Però me ne è detto un pari. Però hanno una gelosia, hanno una cosa che tutti vogliono. Allora, io mi metto nel divano, un cane in un piede e un cane nell'altro, un gatto in un braccio e un gatto nell'altro braccio, e accarezzando tutti quanti, prende forte, e beh, rissa. Beh, io su questa cosa mi sono sotto al collo e è contenta, coricati, mamma mia, oh bravo. No, schiacciavo ormai che con la mano sinistra e mi alzava, col muso mi alzava là. Vuol dire che vuole che, cioè, non vuole che parli, non vuole che coccole, ma che quell'altro mio lo fa, quell'incesto lo fa, che vuole sempre. Il problema qua, quel cane è bravissimo, però il problema è che lecca. C'è sempre a lingaffura, sempre a lingaffura, porca miseria. Non si può suppusciare. Chi d'altro non ti zecca, chi d'altro piglia bene, vuole carezza e se ne va. Chi solo già mi accarezzarlo, sempre a lingaffura, e ti ringhi la faccia, ti ringhi le mani, ti ringhi i gusci, goia. E vuole poi tirare le braccia in concerto, e quando vuole accarezzarlo ti mette il muso sotto, ha una forza, ti mette proprio il muso sotto, ti toglie le braccia dal concerto e accarezzarlo. No, io stasera sono andato dopo lavoro, sono andato a casa di un'amico mio, maresciallo, e mi ha regalato la piscina. E ha due cani lui, ha un cane corso che è un po' vecchiotto, è un pitbull incrociato, ma se lo vede è un bestione. Questo, cioè dei cani, guai se fossero stati cattivi, sono mastodontici, sono grandissimi. E questo si è affezionato a me, questo cane, no, ma non mi leccare, non mi leccare che poi entro a casa questo qua mi fa il muso lungo lungo. Beh, lo sai che l'hanno sentito, appena sono arrivato in macchina, dal finestrino ho sentito l'odore. Sì. Ebbè, l'altro giorno che ero da Tetti per fare quella cosa, quando sono rientrato, non puoi capire, ma ho dovuto fare la doccia, ho dovuto fare la doccia perché questi qua erano impazziti, proprio prendendo le carte, ma ho attaccato, cioè, si sono zuffati tra di loro. No, questi io invece io faccio l'oncio, prendo, me ne abbraccio subito, immaginate che il loro odore con quello degli altri si confonda, se non stanno col muso, che insomma sono uno attaccato all'altro. Oh. E come fanno loro, uguale, identico. Purtroppo quando il cane si affeziona e sente odore di altro cane, boh, non ti gabbio nel nanto, fratello, io mi è arrivato il momento di fare le mie cose, dolce e altri, la doccia mi devo sistemare fuori perché ho il barbecue un po' inguaiato, quindi devo prima sistemare fuori, poi mi faccio la doccia perché c'ho puzza di bancarella, ho odore di bancarella, quindi se dopo ci facciamo quattro chiacchiere. Ma in tutto questo Franco dov'è? No, ha dato forfè. Ma va tranquillo, io adesso mi mollo qua, vediamo cosa organizzare, ho pensato attina, ma che cosa di leggero, boh, vediamo, non so se, perché mai già sta stirando, quindi sono queste le belle ore per fare queste cose, al fresco. Ma non ci credo neanche se ti vedo mangiando insalata. Sì, no, io adesso iniziamo a essere un pochino più severi, dai. L'hai detto anche 5 mesi fa, è impossibile, non ce la fai. Poi con l'inverno adesso. Vabbè, ma lasciamolo credere almeno. Infatti, non te lo faccio neanche credere perché è impossibile, è una cosa che non ci riuscirai mai. Con tutti quegli spuntini, poi adesso ti portano i cinghiali su perché il periodo di cinghiali mi. Crocro! Vabbè, cosa c'entra? No, ma eliminiamo qualche cosina di gasato, dai, vediamo un pochino. Adesso guardando un video, te, se questo c'ha quattro magliette lo spiego. Il gasato ce la fai, sì, no, il gasato e magari la birra ce la fai, vabbè, non è che birra ne bevi, però il gasatino o la birra, quella del faticcante, ma può darsi che ce la fai a toglierla. Però l'insalata, siccome tu te la fai, insalata di maiale, cinghiale e capretto. Quella è una bella insalata. E le patate dove le metti? Esatto, e le patate. Vabbè. Ma futidini. Guà. Scusa. Quello che uno può prendere e può eliminare veramente, ma proprio veramente, ti adesso a parte gli scherzi, è limitare il pane. il pane si, il pane, allora già se una persona limita il pane è una roba gasata, ma la birra uno se la può anche bere, intanto non è che si unia di a tazza di birra in mano, di adesso parliamoci chiaro, quando uno si beve due bottiglie di birra, due o tre bottiglie di birra al sabato, quattro bottiglie di birra al sabato, cioè, quello non è bere gasato. Il bere gasato è quando uno si beve 3 litri di acqua a San Martino ogni giorno, capito? Poi torna a casa, si beve 3 bottiglie di birra e beve l'aranciata e beve la Coca-Cola, la Sprite, capita? Lì sei bigasato davvero. Però tu non è che bevi questa grande, poi non lo so se tu bevi acqua gasata a casa tua durante il giorno o al lavoro, però già limitando il pane e la roba gasata, uno va a star meglio al 50%. Lo so, a me viene anche male eliminare il pane, però perché io come lavoro, cioè un panino non te lo mangi. Perché tu dirai, ma poi alle 5 di nuovo fame, porca miseria, ma non ti puoi mangiare un panino, tu non te lo mangi, tu te ne mangi almeno due, dei panini, perché non sei persona panino tu. No, guarda, su questo ti devo, allora tu pensa che, infatti, io quando mangio con gli operai, è già finito, sì, io ho già finito, io un panino basta, un panino per dire molte volte anche con l'affettato che è sbagliato, però, oppure con la fettina, però sempre un panino normale, poi la frutta e basta. Non lo so, vabbè che tu fai anche un lavoro che sei sempre, diciamo, il 60-70% della giornata sei seduto, è proprio un movimento fisico, non è che bruci tantissimo, attenzione, non è che bruci tantissimo, tu visto che bruci è ricina, anche da te ricina di qui in terra, però devi proprio prendere e limitare proprio il pane, il gasato e poi avendone voglia o due volte alla settimana andare a camminare non sarebbe male, anche in pineta portare i cani in spiaggia, quello è bello. Sì, ma cioè, vabbè adesso no, per dire, quando ero in campeggio ho compromesso anche i polpacci, non è che è le gambe, per carità, non riuscivo più a camminare da quante passeggiate ne ho fatto col cane. Una di? No, 5 giorni. All'anno? E che ti imbattino. Puoi pregare che ho fatto quei 5 giorni. No, vabbè, ma la sera come fai? Rientri a tardi, adesso devo andare anche a prendere il ragazzo. Tra una cosa e l'altra, come ti vuoi fare passeggiate? Voglia? Prima, sì, diciamo la verità, prima facevo, uscendo dal lavoro, venendo a casa, tutta la ginnastica, neanche dove, cioè tutta la ginnastica, addirittura mettevo anche la busta per sudare e mi facevo 6 km al giorno, in giro di un mese ne ho uscito 10 kg, in giro di un mese, poi ho iniziato a vedere mancanza di barba in faccia, perché vitamine mancanti e balle varie, quindi troppo in fretta, diciamo che, sono chiacchierato. Una discussione a due. Sì, ma l'altro sta un po' soffrendo, l'altro, ma non fa niente. Sì, si arrangiano. Sì. Cioè, poi a barre, se non si cagge a barre. Come ti va dei missi tu? Se non si cagge a barre, a codo, a coso, ma si arrangia. Da pari e bari, metto i pulsanti, io ho sempre detto una cosa, il pulsante non va a far ridi mai vicino alla bambina, che sennò agguanto la bara o agguanto accendo la motosega e vado a pizzi. Ah, quello è poco ma sicuro, no, se succede una cosa del genere mai succede, per carità. Io ci metto poco, io ho la motosega, guarda, accendo al primo colpo, accendo la motosega, beh, con una vria da 8 e 2, dronco in 2. Va bene, organizzati che anche io adesso vedo di fare qualcosa. Prima di sbatterci almeno uno fuori da qua. Sì. Va bene. Dai, faccio la metà posto un po' di roba fuori e poi mi faccio una doccia. E sono accese le radio, adesso mi accendo lì come mi ascolto poi in 80, tanto ci deve essere qualcosa. Se coincide a dopo, chiama anche là o chiama qua, tanto è tutto squelciato. A te ti ricevo subito a fondo scala. Ciao, a dopo. Ma dopo Tino, buona cena. Ehi, a dopo, grazie, tanto ho già mangiato. Andare, ciao, ciao, a dopo. Ciao, ti a dopo, ciao.